Ben ritrovate e ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore e siete all'ascolto della seconda puntata di Il Nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi. Con me in questo viaggio c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Salutiamo Raff, salutiamo anche Lello che è il nostro uomo Il ombra che nostro regge le spirito fila guida. di tutto. Il nostro spirito guida. Esatto. In questa puntata abbiamo come ospite Mattia Tombolini, scrittore, editore di Momo Edizioni e tantissimo altro ancora. E con lui vorremmo affrontare l'argomento del rapporto che intercorre tra editoria e nuovo fascismo. Così saluto e ringraziamo Mattia. Ciao Mattia. Buonasera, ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito e mi date questa No, responsabilità di parlare di queste cose così importanti. Speriamo che esce qualcosa di buono. ma Sicuramente. sicuramente. Partiamo diciamo, da una domanda semplice. Cosa si intende con l'espressione cultura di destra? Perché diciamo, partendo da qua vorremmo anche arrivare a far chiarezza sul rapporto esistente tra cultura e politica di destra e soprattutto in relazione all'avanzare di un clima neo-postfascista unito a politiche reazionarie e repressive. Sul significato di cultura di destra è già una bellissima domanda perché apre a molto, cioè farebbe la pena riflettere su una cosa del genere. A me viene in mente di dire che evidentemente la destra con la cultura ha un problema, nel senso che ha un po', come dire, la necessità di dimostrare in questo momento che anche loro hanno una cultura, che anche loro si occupano di cultura, che anche loro hanno degli intellettuali di riferimento, hanno un po', diciamo, il pallino, la fissa e anche, come si dice, di dimostrare che anche loro in qualche modo, no, dentro questo ambito hanno da dire qualcosa. E quindi mi viene in mente, ovviamente, che, come dire, diciamo, non è che la destra non abbia una sua cultura storica, di sicuro vede la cultura come qualcosa di direttamente legato alla propaganda, o comunque sia a uno scopo, diciamo, che è quello appunto di propaganda, e su questo ha le idee molto più chiare della sinistra, cioè nel senso che nel momento, la prima cosa che ha detto nel momento in cui si è insediata Meloni, una delle prime cose è stata quella di dire ok, cominciamo a riprenderci questi spazi, cominciamo a, come dire, occuparci di spazi della cultura perché sono spazi, diciamo, strategici che a noi ci interessa riempire. Sono stati molto chiari e l'hanno fatto in maniera anche, lo stanno facendo in maniera molto chiara. Diciamo, la destra fa la destra, quindi su questo, diciamo, da Fiuggi in poi, da quando ci fu, insomma, come dire, in qualche modo Fini fece questo passaggio di dire la destra si deve in qualche modo distaccare dallo squadrismo, da quella storia lì per una nuova fase. Comunque sia, diciamo, loro hanno preso molto seriamente tutto ciò, non si sono realmente poi, come dire, veramente distanziati, hanno anche all'interno loro probabilmente sofferto questa decisione, ma come dire, si sono occupati di questo ambito come qualcosa su cui fare quello che loro hanno chiamato all'inizio la controegemonia, no? Cioè, a me ha fatto subito pensare questo. La destra vuole fare la controegemonia, va da sé che uno penserebbe, allora vuol dire che adesso c'è l'egemonia di sinistra, no? E invece ti guardi intorno e dici, ma dove sta egemonia di sinistra, e quindi evidentemente quella che loro, come dire, schematizzano come sinistra in questi anni ha fatto invece della cultura qualcosa che è semplicemente molto legato al mercato, che non si è mai voluto schierare veramente, ha annacquato il più possibile la parola cultura. E fondamentalmente è stato un posizionarsi dei soggetti singoli dentro gli ambiti, diciamo, più importanti. Questo è stato il mondo dell'egemonia culturale di sinistra. È stato Nicola Lagioia che si prende il salone e per tot anni accresce la sua figura, con dei numeri che dice che è cresciuto anche il salone, ma poi lui nel frattempo altri personaggi della sinistra molto interessanti, molto, molto seri, molto riconosciuti, tutti posizionati dentro gli apparati, diciamo, più importanti della cultura, del mainstream, eccetera. L'effetto è che poi c'è avuto la Meloni, quindi evidentemente, diciamo, oltre all'idea di posizionarsi questi qua, un'idea di mondo, una visione di mondo alternativo all'esistente non ce l'avevano, non ce l'hanno, tant'è che adesso sono scomparsi tutti, perché hanno paura di perdere quel poco che magari riescono ancora a trattenere. Quindi, se parliamo di cultura di destra, la prima cosa che mi viene in mente è che la destra sulla cultura ci sta facendo politica, ce la fa, e fa la destra, a differenza della sinistra. Però diciamo che loro, anche storicamente, hanno sempre avuto bisogno di questa legittimazione intellettuale, però come hai detto tu, dalla svolta tra virgolette di Fiuggi, quindi a cercare nuovi campi, però loro adesso la legittimazione la chiedono sulle loro idee vecchie, cioè le idee degli anni 50, degli anni 60, certo, a modernizzare, ma fondamentalmente quello. Allora, da una parte c'è sicuramente, scusa, era questa la domanda? Sì. Okay. Cioè, l'integrazione a quella di prima. Da una parte c'è sicuramente questo complesso di inferiorità, e che quindi poi tirano fuori, diciamo, questo lipore anche, no? Che poi è quasi anti-intellettuale, cioè fondamentalmente loro fanno il gioco sporco di dire che chiunque sta nel mondo della cultura cosiddetta di sinistra fondamentalmente è un radical chic che sta fuori dalla realtà e non capisce i bisogni di pancia del popolo, mentre loro invece sì, nonostante loro del popolo non sanno niente, non provengono dal popolo e la maggior parte sono industriali o comunque borghesi, insomma, quindi diciamo fanno su questo un gioco sporco. Dopodiché c'è sicuramente un'opera di mistificazione, di negazionismo rispetto alla loro storia, quindi da una parte al loro interno se la rivendicano, se la usano, no? Come abbiamo visto anche all'interno dei circoli, no? come qualcosa, un elemento aggregativo quasi, pubblicamente non lo fanno, e quindi hanno questo doppio binario, questa doppia anche morale, no? Per cui fondamentalmente quando gli pare quella roba è folklore e quando gli pare invece è qualcosa che è strutturato. Così come in Ungheria la marcia dell'onore, Orban dice che è una marcia commemorativa, folcloristica, eccetera, è una marcia dei nazisti, in un paese che evidentemente vede i nazisti addirittura come minoranza tutelata, e quindi diciamo le due cose in qualche modo si parlano molto, in maniera molto diretta. Quindi poi non è un caso che i nazisti, che sono gli stessi della marcia, collaborano in maniera diretta con gli apparati di polizia, questo in Ungheria, e viceversa. Quindi un nazista in Ungheria è tutelato perché è una minoranza, ma quando un nazista insieme alla polizia o da solo o insieme ad altri nazisti decide di dar fuoco a un campo profughi dove magari sono anche dei morti, in quel caso un campo di Rom, un campo Rom dove sono addirittura dei morti, in quel caso non si parla più di minoranze da tutelare. Quindi, diciamo, vediamo come si piega in qualche modo la realtà a quello che in qualche modo a loro conviene, ovviamente. Lo vediamo tutti i giorni in televisione, insomma, lo vediamo in qualsiasi dibattito televisivo. Il problema, io penso, sia stato quello di legittimare anche la loro presenza, per esempio, nei dibattiti. Questa cosa l'ha cominciata a fare qualcuno anche dentro la sinistra, ma anche gli stessi che oggi stanno ancora lì, in quei posti, e ancora li invitano, perché stanno al governo e quindi sono costretti a farlo dentro i loro programmi televisivi. Mi ricordo quando Formigli è stato a Casa Pound, quando c'è stato Mentana, hanno fondamentalmente detto: se questi partecipano al gioco democratico, allora bisogna parlare pure con loro. È da lì, è da questa confusione, è in questa, diciamo, confusione che loro si insinuano. dentro quel campo democratico che non mette più confini, e quindi poi dopodiché il confine diventi tu. Senti Mattia, invece, visto che volevamo proprio entrare nel discorso dell'editoria, quanto è cresciuta l'editoria di estrema destra sia in Europa e anche in Italia? Guarda, io su questo sono sincero, non lo so, nel senso che non ho i dati concreti, per cui posso parlare di quello che è un mio sentore, di quello che vedo, certo, diciamo, nelle fiere o che vedo. Ci sono poi dati che si possono andare a vedere. Io non penso che sia cresciuta particolarmente l'editoria di destra, poi bisogna vedere che cosa intendiamo. Ogni anno in Italia nascono un sacco di editori e muoiono, alcune case editrici si mantengono, ci sono varie realtà editoriali che fanno una produzione di questo, che possiamo considerare di destra, non solo di destra, ma addirittura di estrema destra, negazionista, con revisionismo storico, eccetera, ma che non credo abbiano chissà quale successo editoriale, anzi, penso che siano abbastanza marginali. Alcune di queste sono legate a personaggi che stanno spesso anche in televisione, che quindi hanno anche un'altra attività di giornalista, giornalismo. E diciamo che come le altre tante case editrici, come le tantissime che in Italia ci stanno, penso che la maggior parte di questi non facciano ciò a tempo pieno come primo lavoro, che si sopportano con altre entrate o con fondamentalmente le famiglie o quello che è. Quindi non penso che ci sia una nuova produzione culturale interessante dal basso, dei nuovi autori o di, come dire, di questo tipo. Non mi sembra di vedere questo, sinceramente. Mi sembra più che altro di vedere che il mercato è abbastanza stabile, sono sempre le stesse case editrici che più o meno si barcamenano in quel mercato, e lo zoccolo di lettori che lo tengono in piedi comprando più o meno è quello, cioè una metà delle persone in Italia che non legge neanche un libro l'anno, e poi ci sono degli lettori forti. Poi ci sono degli elementi possiamo considerare invece, secondo me, nell'editoria tutta, che sarebbe interessante andare a vedere qual è la produzione culturale che si sceglie di fare in un periodo del genere, e anche questo, secondo me, è in qualche modo molto interessante, perché va visto, secondo me, un grande cinismo, cioè nel senso, senza farsi chissà quale idea, ma è in qualche modo, diciamo, ci dà dei dati, no? Sappiamo cos'è che chiede il mercato, e il fatto che il mercato chieda certe cose ci fa capire probabilmente anche verso cosa stiamo andando. Non è che se noi vediamo una all'entrata delle Feltrinelli colonne dei libri della Harris, la Harris poi vince le elezioni, questo l'abbiamo visto, così come non credo che il libro della Meloni sia stato l'elemento che gli ha fatto vincere le elezioni. Penso però che la produzione culturale che scelgono di fare gli editori, in questo momento è abbastanza lei che segue il mercato e non viceversa. Invece bisognerebbe un po' invertire la tendenza, cioè bisognerebbe capire oggi qual è il senso politico del lavoro culturale, e in base a questo su cosa investire culturalmente, politicamente, economicamente. Mi sembra che la tendenza è l'inverso, cioè se oggi noi entriamo in libreria troviamo, a parte anche tanti scaffali, per esempio sulle questioni legate al femminismo, al queer o le teorie di gender, eccetera, chiamiamole come vogliamo, è pieno, escono centinaia di libri su queste tematiche qua, il che dovrebbe essere un bene. Eppure non lo è, nel senso che poi non mi pare che ciò blocchi i femminicidi o diciamo corrisponda con una società che in qualche modo prenda in carico molte di queste cose. Al contrario, mi sembra che si annacqui molto. Non credo che ci sia un grande successo di vendite, ma sicuramente una buona prenotazione iniziale di questi titoli, e quindi tutte le case editrici ne producono qualcuno, perché adesso questa è la tendenza. Uguale a un certo punto si facevano tutti i libri sulla destra, non so se ci avete fatto caso, ne sono usciti tantissimi. Ciò non è servito a capire cosa stava accadendo, non è servito. Quindi diciamo che questo modo di fare editoria è quello che da tantissimi anni va avanti, cioè c'è una tendenza, più o meno si segue quella. E chi lo fa con più mezzi lo fa in maniera più forte, quindi sono Feltrinelli, dei libri su sto tema te ne faccio 20, te ne faccio 30, sono l'editore piccolo, te ne faccio uno e sono contento così, e dopo quel pazzo che me lo fa. La cosa interessante sarebbe un po' pensare invece che i lettori non debbano seguire questa, io penso che i lettori sono molto più, anche loro in questo caso non prendono tutto quello che gli viene proposto, anzi il lettore forse deve ritornare un po' al centro, poi il lettore è un bordi niente, perché io penso pure che pensare ai lettori è una cosa astratta, potenzialmente noi dobbiamo pensare che tutti sono lettori, anzi dobbiamo crearne di nuovi, e quindi io quando faccio un libro penso che se lo possa leggere un pischello di una periferia che non ha mai letto un libro in vita sua, così come penso che se lo possa leggere un professore universitario e trovarci qualcosa. Magari faccio due libri diversi in questo caso per dire la stessa cosa, però mi interessa cosa voglio dire, cioè penso che ci sono dei contenuti oggi che sono importanti e per fare questo mi serve fare dei libri, altrimenti non sono più uno strumento, sono un'altra cosa. Secondo me questa cosa qua sarebbe interessante tematizzare con gli editori, con chi, con tutti quelli che fanno lavoro culturale, scusate se la sto a far lunga, ma avete toccato il tasto proprio quello, quello proprio che ovviamente mi interessa di più, e sarebbe interessante capire, cioè sarebbe bello prendere gli editori, metterli addosso a un muro e dirgli: ma tu perché stai a fare i libri oggi? Cioè, a parte chi te lo fa, non si sa, perché tanto non mi pare che sia una cosa così conveniente, ma a parte questo, remunerativa, perché lo fai? Cioè, cosa hai da dire al mondo? Che tipo di libro stai cercando? Questa letteratura alta, disinteressata a quello che succede, a noi ci va bene, sì, però ci serve qualcosa in più in questo momento, perché non esiste più sta roba di essere così distaccata, va bene tutte le forme, l'abbiamo visto anche nel mondo dell'infanzia. Il mondo dell'infanzia è stato un mondo che a un certo punto del lavoro culturale editoriale è cominciato a crescere, quindi sono cominciati tutti a fare collane per bambini, tutti, pure lui non aveva mai fatto, poi Casericci che nasceva, noi pure siamo nati su quell'onda lì, no? Con Momo. E quindi ci siamo chiesti: ma come facciamo? Cosa c'è così tanta editoria per ragazzi e per l'infanzia che forse non serviamo a niente? Eppure, se tu andavi a vedere, c'erano cose bellissime, ma che spesso dicevano poco. Quindi mancava un punto di vista radicale, secondo noi. E abbiamo provato a fare quello. Non è che i libri della collana, Libri Monelli, sono libri che vendono migliaia di copie, però sono libri con cui noi facciamo i laboratori, entriamo nelle scuole, facciamo un lavoro, diciamo, anche militante, e comunque sono libri che si autosostengono, hanno un loro ciclo e come dire, del tutto dignitoso. Sono libri che ancora oggi, il primo libro che abbiamo fatto, Ulissa, dopo 5 anni, ancora portiamo in giro, perché è un libro che non scade mai, secondo me. Per cui, diciamo, scusate se l'ho fatta lunga, secondo me il mercato editoriale non è il posto in cui vedere cosa sta facendo la destra culturalmente, o comunque non è il solo, ma è un buon posto per vedere cosa non sta facendo la sinistra, cosa non riesce a fare, così come altri posti. La destra di sicuro si sta interessando invece di come riempire alcuni spazi, di prendersi alcuni spazi, come appunto il Salone di Torino o altre fiere, come crearsi le loro fiere, e poi in termini di contenuto spesso sono anche abbastanza povere, però tentano di riempire quello spazio lì. Poi vediamo pure che quando la destra fa una cacatina con 20 persone, pare che hanno fatto la presentazione della vita praticamente, quindi diciamo, sto complesso che ci hanno un po' giustificato, secondo me, perché ovviamente, cioè, succede così, però insomma, scusate se ho fatta lunga. Quindi mi aggancio proprio a quello che hai detto alla fine dell'occupazione degli spazi, però diciamo dopo il 2019 e la cacciata di Altaforte dal Salone di Torino, cioè è cambiato qualcosa o fondamentalmente è stato soltanto un episodio sporadico così? Ma guarda, quella è stata una roba secondo me simbolica, che era giusto porre il problema, ma la verità è che ci stanno altri, non so, 5, 6, 10 Casericci equivalenti che, come dire, sopravvivono dentro a quel salone. Quindi è anche un po' ipocrita come cosa, nel senso che, come dire, ci sono altri nazisti, quindi ci sono altri libri di merda, per cui il discorso è diciamo, sicuramente simbolicamente era giusto farlo, giusto anzi mantenere anche questo punto qua, per cui comunque sia a me da averci lo stand vicino o nello stesso posto in cui viene legittimato questa roba qui non mi piace, non ce lo voglio avere, però è anche vero che c'ha una base anche un po' ipocrita, perché poi sei all'interno di una fiera che è fondamentalmente la cosa più anticomunista che esiste, nel senso che non intendo dire che vogliamo la fiera comunista, anticomunismo è un'altra cosa, nel senso che è proprio ragionare di un evento mercato dove fondamentalmente anche gli editori sono schiacciati, nel senso che poi là si vedono proprio le differenze di tutti i tipi, no? Ci stanno i padiglioni, ci stanno chi c'ha il piccolo stand e chi c'ha mezzo padiglione, ci stanno mille contraddizioni, ci abbiamo il libraccio che vende i libri a 5 euro o a 2 euro o a 1 euro e poi ci stiamo noi che paghiamo migliaia di euro per stare lì dentro, siamo in affitto e paghiamo altri soldi, possiamo comprare soltanto da Autogrill che c'ha l'appalto là dentro, per far entrare i libri là dentro dobbiamo pagare la Percam che ci mette dentro, è tutto un sistema di paga, paga, paga e un indotto intorno a sta roba fatto comunque sia di alcuni che sono schiacciati lì dentro che siamo noi, un sacco di precarietà perché tutti i ragazzi che vedete lavorare là dentro sono o volontari o comunque sia persone che si fanno turni incredibili, e poi in tutto questo tu mi vieni a dire c'è starta forte, cioè che è un problema che si aggiunge a tutte queste cose qua, e sicuramente abbiamo fatto bene a far casino, però voglio dire diciamo che bisognerebbe fare ragionamento su a che cosa servono sti cavolo dei eventi. Ovviamente dal punto di vista nostro, che siamo minuscoli, sembra un discorso fatto da uno che sta a rosicà perché sei piccolo e perché non vendi abbastanza. In realtà a noi ci va sempre bene il salone, quindi dal punto di vista economico non è che uno c'ha da lamentarsi. Mi chiedo il senso che c'ha fa sta cosa. Quindi mi chiedo anche chi entra lì dentro in una in un mercato così grande, non so se ci siete pensati, penso di sì, ma è una cosa enorme dove è difficilissimo muoversi, dove è difficilissimo trovare qualcosa, dove è difficilissimo orientarsi. Non credo che sia un evento di quelli da cui si esce con qualcosa in più. C'ho la sensazione che sia un evento consumo dove tu vai là e sei consumatore, tra l'altro non hai neanche chissà quale scelta, c'hai tutti questi prodotti esposti lì e fondamentalmente non sai come fare, quindi vai dove vanno tutti. Poi ecco, negli anni sicuramente è stata anche l'occasione, il salone, per avere artisti internazionali che altrimenti non avresti mai o comunque difficilmente avuto, e quindi va riconosciuta questa roba qui, ma sta roba si dovrebbe fare anche con la gratuità, per esempio. Cioè gli editori per stare là dentro pagano tutti, allora perché per esempio il biglietto non si può ridurre, perché non si può pensare altre forme, cioè l'unica cosa che era stata fatta era quella di mettere questo buono per le scuole, che è stata secondo me una cosa carina, che andrebbe ampliata, però insomma, perché poi arrivano questi ragazzi con questi buoni che non sanno che ci devono fare, non sanno come muoversi in mezzo a queste migliaia di editori, e quindi pure per loro è una cosa un po' così, insomma. Io mi ricordo che abbiamo fatto delle presentazioni dentro a ste sale con questi ragazzini che erano spaesati, distrutti, stanchi, con le scarpe rotte, praticamente erano a casa, nel frattempo sentiva da fuori il casino e dice vabbè, abbiamo fatto sta cosa, però non so cosa gli rimane, sinceramente. Ritornando alla domanda iniziale, cioè al tema iniziale, scusami, quali sono stati, visto che comunque in passato ci sono stati, i legami tra... attualmente dico, i legami tra case editrici di destra e movimenti neofascisti? Ah, questa è pure un'altra bella domanda. Guarda, penso che i legami sono semplicemente che sono le stesse persone, quindi Altaforte comunque sia è gestita da Polacchi, che è l'amministratore unico ed è uno dei dirigenti, è stato un dirigente, ma non so adesso che fa una vita perché mi occupo di altro, diciamo, di Casa Pound, quindi non è che c'è un legame, è direttamente lui, insomma, come dire. Così come le altre piccole realtà che ci stanno, sono tutte persone direttamente o militanti o comunque sia vicine a... Ma questo io penso che sia normale, cioè nel senso ci sta. Cioè, è un, penso che è la cosa meno scandalosa che c'è, nel senso che una realtà politica si dota anche di strumenti come quelli là, appunto delle case editrici, dei giornali e tutto il resto. Loro pure hanno fatto questo qui. Ora, il punto è che evidentemente c'è un problema precedentemente, cioè diciamo proprio alla fonte, cioè del fatto che questi esistano e che gli sia permesso di fare le stesse cose che sono permesse a chi si muove nel campo democratico. Forse sto campo si è allargato un po' troppo, però evidentemente, come dire, nel momento in cui possono addirittura partecipare alle elezioni, nel momento in cui se, come dire, te la prendi con loro e pensi che debbano chiudere questi covi, queste sedi, addirittura vieni visto te come antidemocratico, la cosa meno grave mi sembra che facciano una casa editrice, cioè sinceramente dopo che hanno dato coltellate a destra e a manca, insomma, facessero queste case editrici, mi sembra la cosa meno grave che hanno fatto, insomma, pure perché poi alla fine non penso che questi libri abbiano sto successo, sinceramente. Il problema è che esistono. Sì, certo. Beh, però diciamo si usa la casa editrice come, diciamo, mezzo di propaganda, perché se esiste, diciamo, sia in Italia che in Europa, se c'è un collegamento tra queste cose, cioè le case editrici è visto soltanto come mezzo di propaganda o è visto anche per, cioè, propaganda del momento? Calcoliamo che stavo vedendo adesso, cioè proprio io penso che, ma non mi ricordo la casa editrice, stavo controllando, il libro per esempio di Italo Bocchino è, sì, è della Solferino, cioè non so come dire, non è che Bocchino ha fatto il libro con Altaforte, ha fatto con Solferino, cioè una casa editrice importante che fa anche una narrativa di qualità e che non ha avuto nessun problema a fare un libro che poi lui presenta insieme al presidente della Camera, un libro che fondamentalmente è un libro negazionista, cioè è un libro che ribalta tutto, cioè nel senso, quindi capito che ti voglio dire, credo che ovviamente poi Bocchino è uno, è parlamentare, insomma, no? Quindi perché non dovrebbe pubblicare? Cioè nel senso, la casa editrice che cos'è? Io sono molto legato a figure di Gian Giacomo Feltrinelli, che ha un'idea di casa editrice che in qualche modo sicuramente era vicino inizialmente al Partito Comunista, ma che manteneva sempre una sua indipendenza, tant'è che una delle rotture che ci fu proprio sul Dottor Zivago, perché il Partito Comunista non voleva la pubblicazione di un libro che era considerato antisovietico, ma invece per Feltrinelli quel libro era un libro valido, un libro che invece doveva essere pubblicato da una casa editrice di sinistra, proprio perché tirava fuori tutto ciò che non andava di quell'esperienza, evidentemente. Tra l'altro un libro che poi ha vinto addirittura il Nobel, insomma, stiamo a parlare di un caso editoriale mondiale. Però quella cosa lui l'ha detta per dire: questa è l'indipendenza di una casa editrice. È una casa editrice che se non cambia, se cambia il partito, e che c'ha una sua linea, una sua indipendenza. È quello che non stanno facendo le case editrici in Italia. Cioè, le case editrici in Italia seguono il mercato. Quindi se adesso questi stanno al governo, loro li pubblicano, anche se sono gli stessi che magari 2 giorni fa stavano nell'MSI, o che magari fondamentalmente fanno questi libri anche per, come dire, piegare la lettura della storia e comunque sia reinterpretarla dal loro punto di vista. Quindi questo che io penso, diciamo, Altaforte è una micro casa editrice non di successo, che non ha neanche un titolo che ha venduto più, penso, di 1000 copie, almeno credo, nonostante ha fatto addirittura un'intervista a Salvini, ma ha venduto 400 copie, una roba del genere, se non mi sbaglio. Ci sono i dati da qualche parte, cioè su GFK, per chi ha gli accessi, penso sono dati reperibili, ma tantissimi di questi casi di cui si parla tanto nei giornali magari poi hanno pochissime copie, o ci sono casi come quelli de Vannacci, che si autopubblica e ne vende 100.000. E lì è un caso che andrebbe indagato, per esempio. Io mi sono molto divertito a stare appresso al generale, ci ho fatto due libri che lo prendono in giro, che sono Pecchi di Merda 1 e Pecchi di Merda 2, perché fondamentalmente facevo la stessa operazione sua e costruivo il complottismo invece che su una minoranza, su una maggioranza, portandola all'assurdo. Ma al di là della questione, diciamo, proprio narrativa, quello è stato un caso editoriale dove uno che ha pubblicato per conto suo su Amazon, quindi in self-publishing, e potenzialmente non poteva anche accorgersene nessuno, i giornali cominciano a dargli addosso e, come dire, fargli una pubblicità gratuita mai vista per il libro, e non soltanto per colpa loro, perché magari la stessa pubblicità in un altro libro non avrebbe funzionato. In questo periodo storico, con questi rigurgiti e con questa mar de pancia, diciamo, reazionario popolare, ha fatto vendere 100.000 copie. Cioè, quindi, che ti devo dire? È colpa, cioè, ormai c'è col self-publishing, si supera addirittura il modello della casa editrice da questo punto di vista, e allora dovrebbe tornare ancora di più quello che dicevo prima. Cioè, la casa editrice esattamente dovrebbe essere quell'argine, cioè, dovrebbe essere fatta da persone che ti dicono cosa ha senso o meno pubblicare. Questa cosa io non la vedo adesso, la vedo in poche piccole realtà che fanno dei lavori certosini e di pregio, specifici, di nicchia spesso, ma non lo vedo da parte delle grandi case editrici, che invece oggi ci avrebbero una grandissima responsabilità, e quindi te pubblica tutto il contrario di tutto, perché c'è il problema di fondamentalmente rimanere in quel fatturato, stare dentro a quel mercato, eccetera. Parliamo dei case editrici che non c'hanno soltanto metà del mercato dal punto di vista editoriale, ma c'hanno anche le distribuzioni, c'hanno anche le librerie, i punti vendita, e soprattutto c'hanno altre aziende con cui veramente fanno i soldi, e questa dell'editoria è una cosa, è in piano B, insomma, come dire, o comunque qualcosa in cui buttare un sacco di denari, eccetera, e c'hanno anche i mezzi. Quindi potenzialmente sono delle potenze che potrebbero prendere in mano questa situazione in qualche modo e decide anche di fare qualcosa, e non lo fanno. Quindi, cioè, sinceramente, io sono più incazzato con loro che con gli editori sfigati di destra, perché quando vedo Solferino e pubblica Italo Bocchino, cioè, che te devo dire, o Rizzoli che te pubblica tutto il contrario di tutto, insomma, mi faccio due domande in più. Noi volevamo, avevamo pensato con Raffaele di farti una domanda sul ruolo delle case editrici, diciamo, vicino alla destra, di estrema destra, che ruolo avevano nell'attuale propaganda di questo governo. Però in base a quello che stai dicendo tu, ti ribalto la domanda: quanto sono corresponsabili quindi le case editrici non di destra? Guarda, sono responsabili, te faccio un parallelismo, tanto quanto il Partito Democratico e queste forze qua. Cioè, io penso che buona parte, poi ovviamente questo è il mio punto di vista, che domani viene uno e ti dice no, è una cazzata, cioè, nel senso che è proprio il mio pensiero personale, è appoggiato su le mie esperienze, ma non è che ti dico è così perché matematicamente così. Penso che buona parte del successo della destra è dato da queste forze cosiddette di sinistra, o dalla sinistra inconsistente che non c'è. Ieri e di adesso, appunto, è proprio visibile con Trump il fatto che evidentemente quando tu contrapponi a una destra in cui la destra si riconosce con contenuti di destra radicale, contrapponi un centrismo milionario e che rappresenta fondamentalmente delle lobby di potere, che è lo stesso che fondamentalmente ci ha portato in questa condizione, questa cosa non funziona. Parliamo di, in questo caso, non, diciamo, una roba che ricasca su di tutti. Questa cosa, quindi, io penso che il successo dei Meloni sia dovuto in buona parte all'incapacità, anzi alle scelte, non tanto incapacità, alle scelte politiche che sono state fatte da tutti i governi di centrosinistra precedenti, che erano in grandissima continuità con quello che poi Meloni ha portato a un altro livello. Se pensiamo al decreto Minniti, è stato un decreto che loro addirittura, se gli dispiace che non l'hanno fatto loro, perché dicono: ma questo è troppo di destra, perché ha fatto lui, lo dobbiamo fare noi. Se pensiamo al decreto Lupi contro gli occupanti di casa, se pensiamo a come hanno trattato l'anno scorso ci stupivamo di quando sono stati caricati gli studenti, ma quando ci stavamo noi siamo stati massacrati de botte, sono stati denunciati, arrestati, ci hanno spazzato via più volte, eppure sembrava se potesse fare, perché alla fine lo facevano centro-sinistra. E quindi che te devo dire? Infatti io dico sempre, prima di Genova 2001 c'è stato Napoli 2001. Esatto, per cui io penso che ha responsabilità, sicuramente l'editoria a tutto il mondo culturale ce l'ha, grossissima ce l'ha, chi ci lavora dentro ce l'ha ancora oggi, perché io continuo a vedere questo mondo qua che è totalmente distaccato dalla realtà. Se vediamo la programmazione del prossimo Libri più Liberi, è una programmazione distaccata dalla realtà, dove ci sono dibattiti che possono essere pure interessanti, ma non si accollano minimamente di essere il contrasto a questo governo. Il contrasto culturale e politico, cioè non vuol dire mettersi lì e fare i dibattiti con gli esponenti politici, vuol dire chiamare a raccolta tutti quelli che hanno un pensiero radicale, strutturato, e ragionare su questo. Cioè ragionare come la cultura come qualcosa appunto che prende posizione, come si dice sempre. Questa non è una frase sicuramente, anzi, è fin troppo inflazionata, però sempre valida secondo me. Quindi la responsabilità degli editori è grossa, è enorme secondo me, tanto quanto forse è più grossa la responsabilità degli editori diciamo di sinistra rispetto a quelli di destra. Hanno perso l'occasione, abbiamo forse, me ci metto pure dentro, per fare qualcosa che mettesse delle radici e fare un lavoro di base che in qualche modo potesse essere utile. Quindi se ti dicono c'è cioè, il calo della lettura, ogni volta c'è questo discorso, no? Ah, il calo della lettura, i giovani non leggono più, tutte cose che ti dovrebbero far venire voglia di rimboccarti le maniche e provare a fare un lavoro di base dal basso, eccetera. Invece loro stanno sulle torri d'avorio, dispensano dall'alto quello che secondo loro il mondo dovrebbe recepire come appunto oggetto culturale, pensando che poi vada bene sempre così. Io penso che ogni gesto culturale lasci un segno, e questo è il segno che hanno lasciato, quello che stiamo raccogliendo adesso. Quindi non solo loro, non soltanto questo, è un insieme di cose che si accavallano, dobbiamo ragionare evidentemente di lasciare un segno un po' diverso. Quindi vabbè, noi poi pare brutto quando uno fa un discorso del genere e poi parla di quello che fa lui, come di io so, non, di sicuro non ci abbiamo la soluzione in tasca. Stiamo a ragionare di questo con i prossimi incontri, festival che faremo e soprattutto con un sacco di cose che facciamo dentro le scuole. È evidente che però contiamo sempre il fatto che tu fai questo lavoro di base, vai a scuola, ma sei sempre in una scuola delle migliaia in cui dovresti stare. Ci sono un sacco di realtà di base che fanno questo, associazionismo, eccetera, che spesso non trova però fuori uno sbocco di qualcuno che sia in grado di mettere insieme, in correlazione, queste cose che anche accadono, ma che magari manco si sa, e le stesse persone non si riconoscono in qualcosa. Quindi in realtà continuiamo a scontare la mancanza di una realtà politica che possa, non sto parlando per forza di un partito, ma di qualcuno che riesca a mettere insieme tutte questo fare. Quindi ancora una volta la società, diciamo, sta più avanti dei partiti, nel senso che poi spesso le persone si auto-organizzano, trovano il modo di far fronte a queste cose qui, e quindi diciamo noi dovremmo fare il lavoro di fare quantomeno una narrazione diversa e creare un immaginario, secondo me, figo, accattivante, che in qualche modo ricrea una socialità, insomma, ricrea, perché mi sembra proprio che anche la sinistra su questo è bravissima a darsi la zappa sui piedi, quindi per quanto riguarda l'immaginario non ci siamo proprio. Che forse possa essere anche, diciamo, passami il termine, attrattivo verso soprattutto gli adolescenti alla fine, no? Beh sì, io mi ricordo quando ero piccolo c'erano un sacco di cose che per me erano fighe e che mi hanno fatto arrivare un sacco di contenuti. Magari oggi manco mi ascolto, anche musicalmente, non solo editorialmente, musicalmente, al cinema, mi ricordo i 99 post, per me sono stati un gruppo fondamentale. Tutte le parole che dicevano, la metà ne sapevo, andavo a cercare, ma che vuol dire il movimento? Ma che cos'è sto movimento? Ma dove sta? Andavo a cercare il collettivo, che cos'è il collettivo? E sentivo cose, e sentivo delle storie, sentivo parlare di Genova, sentivo parlare... ed ti avvicinava ad alcune questioni, così come gli assalti frontali, così come, non lo so, io mi ricordo il film L'Odio, è stato un film per me che ho visto penso 200 milioni di volte, a un certo punto è una cosa proprio malata, però perché io mi riconoscevo in quell'immaginario, in qualche modo, in questi pischelli di periferia che vivevano una realtà diversa dalla mia, ma che mi sembrava qualcosa che parlava a me, e, nonostante è un film che non finisce bene. Però tu volevi essere parte di quella storia là, volevi capire dove succedevano cose simili e quindi andavi a cercarle. Almeno io sono andato, io mi sono avvicinato al mondo dei compagni perché andavo a cercarli, li volevo cercare, li volevo scovare, e quindi sono andato alla palestra popolare di San Lorenzo, ho conosciuto quella vicenda, poi sono andato alla libreria, mi sono comprato non so quanti libri per cercare di capire meglio e così via, sono arrivato al collettivo, eccetera eccetera. Questa è la storia mia, però ognuno fa la storia sua che è diversa. Spesso può essere una canzone, può essere un libricino, un fumetto, un film. E io penso che il lavoro culturale è questa cosa qua, c'è una responsabilità enorme. Quindi io veramente spero che di tutti questi libri che facciamo per qualcuno possa essere utile ogni tanto trovarne uno, ma anche trovare una frase che te fa due domande e che... fa scattare la, la curiosità. Sì. Allora, volevo parlare di graphic novel, anche perché c'è stato il 2019, no, due anni fa, c'è stata la storia di Ferro Gallico che ha presentato due suoi volumi alla Camera, e poi grazie ad alcuni esponenti in Veneto questi libri sono stati portati anche nelle scuole e nelle biblioteche. Questo successo letterario che l'estrema destra comunque ha cercato di prendere per prendersi, diciamo, una fetta giovanile, credo, del mercato, è un successo solo italiano o è anche europeo? Guarda, questo, allora, che la destra stia sicuramente provando a produrre delle forme editoriali più comunicative, diciamo, è una cosa che sta succedendo in tutto il mondo. Ma perché questa è una fase in cui il fumetto in generale è cresciuto molto. Cioè, negli ultimi 15 anni il fumetto è uscito dalle fumetterie, è uscito dai nerd, da quel mondo lì, è diventato qualcosa molto più pop. E quindi sono cambiati i dati, sono cambiati i dati di vendita, è cambiato tutto. Si è capito che le graphic novel potevano essere uno strumento di comunicazione più efficace rispetto ai romanzi, per esempio. I romanzi sono sempre stati... Io mi ricordo, appunto, proprio Feltrinelli, quando lui ha deciso di fare romanzi, erano considerati la cosa che vendeva di meno. Cioè, morti addirittura. La narrativa era considerata morta. Quindi era la saggistica che andava forte. Lui ha deciso di investire invece sui romanzi perché diceva è il modo più accessibile per arrivare a alcuni contenuti, i saggi non li capiscono tutti, invece i romanzi sì. Questa cosa è scesa ancora adesso fino ai fumetti evidentemente, o addirittura ad altre forme ancora. Ora, io penso sia un errore pensare che questi due esempi che te mi hai fatto siano esempi di successo. Non sono di successo, sono esempi su cui loro hanno investito, cioè loro sono riusciti a farsi due cagate e hanno investito molto politicamente su questo, cioè li hanno portati, gli hanno dato visibilità, gli hanno dato spazio, li hanno presentati appunto in posti importanti, li hanno fatti entrare nelle scuole, cioè hanno provato a riempire l'insuccesso con l'attenzione politica, hanno investito politicamente su questi fumetti qua. Questo è quello che è successo, ma non... il successo è ben lontano da questi libri. Cioè, come dire, un fumettista di successo sappiamo tutti chi è, perché è un amico, ma stiamo a parlare di numeri che questi qua non si sognano manco col binocolo, cioè, nel senso... No, vabbè, ma io come Salvatore, io penso per successo non intendiamo, diciamo, il premio Pulitzer o che cos'è, cioè, diciamo, comunque una visibilità che prima non ho mai avuto. Cioè, il successo, nel senso, entrare nelle istituzioni, entrare nella cosa pubblica, entrare tra la gente, cioè anche prima tu hai detto al Salone del Libro di Torino va bene Altaforte, ma ce ne sono altre 100 peggio di Altaforte magari, però quella è una visibilità, è un successo che magari 20-30 anni fa non avevano. E invece adesso è legittimato, io questo voglio dire, Certo, cioè, questo è vero. se uno pubblica un libro dove dice i partigiani erano soltanto degli assassini, oggi non scandalizza quasi più nessuno. Cioè, è la sua opinione e si può dire, si può scrivere, si può recensire, si può pubblicare. Io successo, magari è sbagliato il termine, però io questo intendo, Sì, l'uscire fuori. ok. Diciamo, per usare una vecchia espressione, uscire fuori dalle fogne e presentarsi alla società con temi che sono aberranti, che però vengono tranquillamente Legittimati. accettati, Sì, accettati, accettati e legittimati. legittimazione, questa pure, sì, io la chiamerei legittimazione. Poi vabbè, il successo per Bianciardi è il participio passato del succedere, però È successo. a parte le battute, appunto, sì, sicuramente c'è una legittimazione enorme, ma io penso che anche qui è stato, diciamo, l'asticella è stata man mano spostata, e più sposti l'asticella, più a un certo punto si legittima qualcosa del genere. Cioè, nel momento in cui tu, 20 anni fa, ammazzavano Renato, Piaggetti e le stesse esponenti della sinistra, del centrosinistra, o i giornali derubricavano il tutto a una rissa tra balordi, e nonostante la continua comunicazione dei suoi compagni, della sua famiglia, eccetera, comunque sia, quella roba lì non veniva scritta come una cosa grave, tanto da far chiudere i covi fascisti, così come tutte le altre aggressioni, perché rimaneva addirittura, poi si parlava di estremi, di opposti estremismi, eccetera, eccetera, e quindi la legittimazione nel campo democratico dei centri sociali di destra, tanto quanto i centri di sinistra, come se appunto fossero due cose uguali ma opposte. Questo scivolamento sempre di più poi nell'opinione, nel legittimarli verso destra, ci ha fatto arrivare al punto in cui adesso loro possono addirittura dire che i partigiani sono un gruppo di scappati di casa. Questa cosa qui non doveva diventare possibile neanche all'inizio, cioè siamo arrivati fino a cioè, questo scivolamento è stato inesorabile, e purtroppo adesso abbiamo la necessità proprio di invece rimettere la barra al centro. Cioè, contro una roba del genere c'è la necessità di un antifascismo radicale, e non esiste il piano democratico su questa roba qui, nel senso che non esiste pensare che ci possa essere uno spazio in cui si dialoga con questo tipo di opinione, che è un'opinione reazionaria. Questa opinione qua non esiste, punto. Cioè, nel senso che non ha legittimazione da nessun punto di vista scientifico, storico, e quindi ovviamente nel momento in cui loro sono al governo si vogliono legittimare, devono mettere devono mettere devono poggiare, come dire, dei punti, devono mettere dei paletti su delle cose, e lo cominciano a fare dicendo questo. A un certo punto ti troverai una bibliografia di 100 libri che dicono tutti una cosa falsa, e sarà più complicato dire che sono tutte cose false, perché saranno 100, e quindi questo è il grosso problema con cui ci avremo a che fare nel momento in cui c'è una produzione di questo tipo qui. Sarà difficile anche andare a capire tra 8 generazioni quali saranno le cose da prendere in considerazione e quali no. Se questo disclaimer non lo fanno neanche i grandi editori, è ancora più grave, cioè nel senso che qua le posizioni complottiste, le posizioni reazionarie, ormai tutto entra dentro questo calderone, e a un certo punto sarà difficile addirittura ricostruire la storia. Per cui una roba che noi avevamo dato per assodata, cioè c'è stata la resistenza, c'è stata la seconda guerra mondiale, c'è stata la resistenza, è finita in questa maniera. A un certo punto ci dovevamo mettere a discutere, a ridiscutere che cosa è stata la resistenza, cioè questa è l'assurdità di tutto ciò. Noi ti facciamo un'ultima domanda che stiamo facendo un po' a tutti i nostri ospiti, cioè cosa significa essere, secondo te, fascisti, e cos'è il nuovo fascismo nel XXI secolo? Ah, vedi, io penso sempre a cosa significa essere antifascisti. Cos'è essere fascisti? Beh, penso che essere fascisti significa essere la forma di vita più bassa dopo il batterio, quindi vuol dire svegliarsi con un sacco di problemi in testa e pensare che tutti questi problemi te li crei qualcuno che sta peggio di te. Per cui poi, sai, io penso che oggi non so quanti si riconoscano pienamente dentro all'idea del fascismo, ma spesso, come Trump ci dimostra, gli Stati Uniti sono veramente in avanti su questo. Dentro quella roba lì c'è sta un sacco di anche roba. Di roba, sì, anche di disperazione magari, o di ignoranza, o di malcontento, o insomma c'è veramente cose anche molto diverse dentro quel bacino molto grosso che sono i suoi elettori. E quindi penso che diciamo un fascista oggi, o comunque essere fascisti oggi, porta con sé anch'esso delle contraddizioni enormi, perché vuol dire stare in un mercato finanziario globale, che evidentemente non credo sia il punto di vista di un fascista nostalgico del ventennio di oggi. Non credo quanto si possa rivedere o meno in Trump o in Meloni, non lo so. Di sicuro il loro adattamento alle condizioni, diciamo, che hanno intorno, li ha fatti cambiare, e riescono molto bene a vedere un doppio binario che gli consente di vedere il potere in maniera molto cinica, e quindi fondamentalmente di starci dentro, farne parte, guadagnare il più possibile da questo, pensando sempre ai propri camerati, mettendoli, sistemandoli, come a differenza di quelli di sinistra che non si ricorda, una volta arrivano al potere so scompaiono, e quindi ragionano molto di strategia, io penso. Poi non so se dobbiamo parlare del fascista che possiamo contare per strada in borgata, che fa una celtica con la bombetta sul muro, magari quel pischello lì c'ha più cose in comune con me di quelle che posso pensare, perché magari è semplicemente una persona frustrata che non ci ha avuto occasione di poter ragionare altro. Poi ce ne so invece i militanti politici dei partiti o delle realtà appunto organizzate, che sono un altro paio di mani, che la maggior parte di questi vengono da famiglie bene e fanno questa roba secondo me per convenienza e per anche perché insomma sono persone evidentemente che si guardano i propri interessi e non hanno la minima empatia con chi hanno intorno, insomma. Quindi io penso che oggi uno che sta nella destra sta sulla cresta dell'onda, si riconosce in questi governi, non c'ha più bisogno di avere una realtà militante che faccia più di loro, perché già questi sono molto forti, nonostante stanno riaffiorendo molto. Quindi diciamo anche i fascisti di base ci stanno sempre di più, li cominciamo a vedere sempre di più, e sono pericolosi e sono un problema. E per cui diciamo loro questi due bacini li tengono vivi insieme. L'abbiamo visto pure da inchiesta di Fanpage, e per noi è una cosa abbastanza banale, cioè la sapevamo già, cioè sono tutti scandalizzati, ma questo non rappresenta per la destra un problema, assolutamente. Cioè non è che questa cosa che ha fatto Fanpage fa perdere voti alla destra, che dice oh mio Dio, questi sono fascisti. No, per loro va benissimo, cioè nel senso per noi è una conferma. Forse il centrosinistra si si è svegliato, ha visto sta cosa qua, fa finta di vederla, ma non c'è nessuno. Non è che ci sono state reazioni, però, eh. Non è che dici... Per cui, sinceramente, non lo so, non so se ho risposto, perché è una domanda complessa, diciamo. Tutte domande difficili fate, comunque, qua. Non c'è sta... che ne so. È una bella figura. Mattia, noi ti ringraziamo per aver partecipato al nostro approfondimento. Veramente grazie. Vi ringrazio e spero che non avete detto cazzate e di non avervi annoiato. No. È stato molto, molto interessante. Veramente grazie. Grazie a voi.